Si inizierà il 4 dicembre con questo appuntamento che abbiamo chiamato Libagioni. L'appuntamento è introdotto dalla performance di Febo del Sozzo e Tutto Qui. È una performance che è stata realizzata 2 anni fa, è stata esposta anche al Mambo, all'Area del Sole, nell'ambito di Crisalide. È un'opera pensata come un'installazione di arte visiva, ma anche collegata e diciamo intrecciata con una performance. Poi ci sarà una sorta di intervallo, l'abbiamo chiamato, con ristoro, nel quale vorremmo in qualche modo anche brindare a questi 30 anni. Poi ci sarà la proiezione di un almanacco, cioè una sorta di collezione di immagini tratte appunto da questi 30 anni che verranno proiettati nella cupola. Poi abbiamo pensato a questo incontro chiamato Pratiche e discorsi per propiziare il lavoro nel teatro, che sarà introdotto da Giorgia Boldrini, che è la direttrice del settore cultura e creatività del Comune di Bologna, e abbiamo avuto così il desiderio di fare questo incontro, che ha un carattere del tutto informale, appunto molto distante dalla celebrazione, perché ci interessa da una parte riflettere su un percorso così lungo, forse anche ostinato, portato avanti con ovviamente la fatica, no? E anche la gioia del continuare a voler stare nel solco della ricerca, ma nello stesso tempo ci interessava molto anche capire, nelle condizioni date, come e perché ci sono delle giovani formazioni che desiderano fare lo stesso percorso, e ci interessa capire quali, diciamo, similitudini e quali differenze ci sono tra chi inizia a percorrere la strada del teatro, soprattutto nell'ambito dei linguaggi del contemporaneo, oggi, con quali pensieri, con quali, diciamo, desideri, e anche se il nostro lavoro può in qualche modo propiziare il loro, e può in qualche modo una compagnia che ha 30 anni propiziare il lavoro di chi comincia adesso. Naturalmente non lo facciamo da oggi, cioè lo facciamo da molto tempo, quello di appunto ospitare e sostenere le compagnie che noi riteniamo abbiano qualcosa da comunicare. Lo abbiamo fatto con le residenze artistiche, l'abbiamo fatto anche nell'ultima edizione di Ginnasio. In questa occasione invece vogliamo proprio sentirli parlare, cioè bisogna capire il racconto delle loro esperienze. Parteciperanno poi a questo incontro anche degli operatori culturali, degli artisti, delle persone, degli studiosi, delle persone che in qualche modo hanno affiancato il nostro lavoro in questo percorso. Ed è un percorso che ha sempre visto l'infanzia come un punto di riferimento importante anche dal punto di vista creativo. Gran parte dell'attività di Laminarie è dedicata al lavoro sull'infanzia e sull'adolescenza, questo fin dalle origini, e quindi anche in questa occasione noi faremo questi laboratori teatrali in collaborazione con i servizi educativi e scolastici territoriali del rione Pilastro del quartiere San Donato San Vitale. Questi laboratori si chiamano Ludo e metteremo in gioco proprio la relazione che c'è tra l'imitazione e il gioco e invece la rappresentazione. Poi l'11 dicembre ci sarà il secondo studio della nuova produzione di Laminarie, che si chiama Edifici, 3 vite che non demordono. Procederemo nella realizzazione di questa produzione attraverso vari appuntamenti, cioè vari studi, fino a giungere nel 2025 alla produzione finale dello spettacolo. C'è una collaborazione con Emilia Romagna Teatro Nazionale, l'ERT in sostanza, e quindi proseguiremo, diciamo, tappa dopo tappa fino a giungere alla rappresentazione finale. Anche questa metodologia, che tiene molto in conto la prassi più che la produzione, fa parte, diciamo, della ricerca di Laminarie. Tutta questa progettualità, che sì, territoriale ma anche fortemente internazionale, trae la sua forza e in qualche modo ricade anche sulla produzione teorica. Noi da sempre diamo gran parte, molto tempo, diciamo, della nostra attività è proprio dedicato allo studio, quindi anche alla pubblicazione di ciò che ricade, diciamo, sulla pagina dopo che le prassi si sono consumate. E quindi sarà anche l'occasione per vedere i 10 numeri dei nostri volumetti, le 3 pubblicazioni che abbiamo realizzato, tra cui il volume Anni incauti, da cui appunto trae il nome questa piccola rassegna che abbiamo chiamato appunto 30 anni incauti, un volume che è uscito in realtà in occasione dei 10 anni del DOM, ma che non è mai stato in realtà promosso perché subito dopo c'è stata l'emergenza sanitaria e quindi si sono fermati tutti i lavori, e ci fa molto piacere in questa occasione riprenderlo, perché questo tema del coraggio e dell'imprudenza e della sfida guida e dell'osare, diciamo, fa un po' parte della nostra metodologia di lavoro e quindi mi fa piacere che ritorni anche nel titolo di questa rassegna. Siamo nella fase in cui dopo 30 anni occorre anche pensare a come si svilupperà o come andrà avanti il nostro lavoro futuro, no? Che sarà sicuramente sempre un lavoro abbastanza imprudente, come tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, ma che però intende orientarsi sempre di più sullo studio e sul mettersi sul misurarsi con gli spazi della città, che siano spazi appunto periferici o che siano spazi del centro storico, molto meglio se in collegamento, cioè molto meglio se dal centro storico alle periferie e viceversa. Quindi questo è il nostro motivo che ci spinge, diciamo, a continuare questo lavoro, perché crediamo che la città in questo momento sia l'argomento che ci interessa maggiormente studiare, tant'è vero che appunto la nuova produzione si chiama Edifici e quindi si lavorerà molto, diciamo, sulla casa, sul tema della casa, sul tema dell'abitare. Probabilmente riusciremo appunto a portare avanti questo lavoro grazie al fatto che abbiamo ricevuto questo finanziamento, ma ricordo sempre che sono finanziamenti eccezionali, che non sono finanziamenti che ti permettono per lungo tempo una progettazione. Potevamo vincerlo come non vincerlo, viviamo in una continua schizofrenia, per cui cioè il 30 di ottobre devi chiudere, il 7 di novembre invece puoi andare avanti, e questa mancata, diciamo, stabilità in tutti questi anni chiaramente è un elemento sul quale occorre, credo, in generale riflettere, non solo per la Minaria ma per la gestione complessiva, no, della ricerca e dei linguaggi del contemporaneo in questa città.